La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici qui alla Rosa Purpura, allora settimanale di cinema di Radio 24. Settimana con parecchi spunti di interesse, con un film, diciamo così, di cassetta potenziale, quantomeno, anche se le classifiche, come vedremo, sono dominate da film già in sala da qualche periodo, e con un paio di possibilità d'autore anche interessanti. Ma come sempre noi andiamo a riepilogare i contenuti della nostra trasmissione nei nostri titoli di testa. Affresco di famiglia borghese nella Milano di oggi. Trova finalmente il suo spazio nelle sale Io sono l'amore di Luca Guadagnino, presentato a Venezia con una superba Tilda Swinton. Colpo di fulmine. Amarsi è complicato. Meryl Streep e Steve Martin, protagonisti della commedia sentimentale più attesa dell'anno, perché a volte le passioni si riaccendono. Nei cinema italiani, Il profeta, il film che ha rappresentato la Francia agli Oscar. Storia di Malik, 18 anni, analfabeta, spedito in carcere. Un luogo da dove non si esce mai uguali a prima. A terra in Italia, Star Wars in Concert, lo spettacolo che propone dal vivo la memorabile colonna sonora della saga di George Lucas, a Milano, per tre spettacoli unici. Certe cose le puoi dire a tuo padre. Non sono così negato in rapporti umani come credi tu, tesoro di papà. Anch'io sono stato giovane. Tu pensi che sono incinta? No? Sì? Oh, sì. No, non intendevo questo. Sì, invece. Esci con qualcuno? Sì. E quelle che avete sentito sono le parole fra Thomas Craven, interpretato da Mel Gibson, e sua figlia Emma. Emma che è appena arrivata all'aeroporto dopo una lunga assenza da casa e si riunisce a suo padre, single, veterano detective della squadra omicidi del Dipartimento di Polizia di Boston. I due si ritrovano, il padre capisce che c'è qualcosa di strano nella figlia, pensa che si tratti appunto di una gravidanza che magari la ragazza non vuole raccontare. Poi, appena tornati a casa, i due ceneranno e un altro episodio attirerà l'attenzione del detective, ovvero la figlia si sentirà molto male e comincerà a sanguinare dal naso. C'è un momento nel quale Emma sta per dire qualcosa al padre, i due escono e succede l'imponderabile, succede che Emma viene uccisa in una sparatoria, in un agguato vero e proprio. Subito all'inizio tutti presumono che il vero bersaglio fosse il padre, appunto poliziotto, detective della squadra omicidi, ma presto l'uomo inizia ad avere dei sospetti e si imbarca in una rischiosa missione per scoprire la doppia vita della figlia che ne ha provocato appunto l'omicidio. Questa cosa la si capisce subito nel film ed è l'elemento forte di questa pellicola che è Fuori controllo, Edge of Darkness, che arriva nelle sale italiane in questo fine settimana. Abbiamo voluto aprire con questo film, con questo thrillerone vecchia maniera, La Rosa Purpurea. Noi andiamo ad ascoltare adesso un'altra clip dal film, perché l'indagine porterà inevitabilmente il detective Thomas Craven in un mondo fatto di spionaggio industriale. La figlia lavorava per un'azienda che stava nel settore nucleare e si sa che non è un settore sempre perfettamente lindo, con tante collusioni governative e con molto lavoro sporco da compiere. Sentite questo passaggio nel quale Tom Craven va a parlare con il capo di questa azienda del nucleare, il dottor Bennett. Cosa vuole sapere? Mi interessa solo quello che faceva mia figlia qui. In che senso? Non le parlava del suo lavoro? No, forse rispettava i vostri protocolli di sicurezza. Lei è al corrente di quali siano? Le ho già detto che non mi ha mai parlato del suo lavoro. La Northmore è una struttura di ricerca incaricata dal governo di sviluppare una risorsa energetica, sicura ed ecologica basata sulla tecnologia di fusione. E armi? Fate anche quelle. Le dico che la Northmore fa parte del programma nazionale di stoccaggio e mantenimento del nucleare. Assicuriamo che la riserva nucleare della nazione sia a disposizione del presidente. Non sono armi, è materiale grezzo. Emma lavorava a questo. Oh no, come stagista non aveva nessun coinvolgimento diretto. Appunto, queste sono i momenti in cui comincia a prendere coscienza Thomas Craven di cosa potrebbe essere successo, qual è l'elemento che la figlia conosceva e che potrebbe esserle costato caro. Quando l'uomo comincia a indagare, si avvicina a un personaggio che è il vero grande personaggio vincente di questo film, uno dei cattivi che ricorderemo davvero cattivi, ma con l'anima tutto sommato meno sporca di altri, dicevo, che ricorderemo ancora per molto tempo. È il personaggio di Darius Jedburgh, una sorta di pesce pulitore, di questa manovalanza di una malavita che deve sempre sistemare le cose delle grandi compagnie. Sentiamo. Mi hanno detto che quelli del Nightflower sono stati esposti a radiazioni intenzionalmente. Ma chi me l'ha detto ora è morto. Non era un cattivo ragazzo. Lei sa meglio di chiunque altro che i casi come questi restano irrisolti. Non perché siano troppo complicati, ma perché accadono delle cose inspiegabili per cui non si riesce più a collegare A con B. E lei come lo sa? Perché sono io quello che impedisce di collegare A con B. È il mio lavoro. Sta dalla mia parte? È una domanda difficile. Se ricorda, Scott Fitzgerald definiva l'artista come un uomo che ha due idee opposte in testa e riesce a credere ad entrambe contemporaneamente. Lo sentite, sì. Diciamo che è il mio punto di partenza. Straordinario Jedburgh, un vero e proprio filosofo interpretato da Ray Winston. Ebbene, il thriller va avanti con grandi momenti di suspense, diciamo un thriller classico, di quelli dove c'è l'uomo solo che cerca di scoprire la verità che gli sta più vicina alla pelle. Ma grande tensione che viene mantenuta costante dal realizzatore, dal regista Martin Campbell, che ricordiamo per film di altro sapore, da Casino Royale alla Leggenda di Zorro a GoldenEye, ma mai così vicino appunto al genere come in questo caso. Protagonista, dicevamo, Mel Gibson, che ritroviamo un po' invecchiato, ma insomma sempre abbastanza in forma, ci racconta così il suo personaggio. Il mio personaggio è Thomas Craven, un poliziotto con molta esperienza e un divorzio alle spalle. Ha una figlia, ma non è stato un padre molto presente. In ogni caso è un uomo che non ha paura di prendersi le sue responsabilità. L'azione si svolge molto velocemente e la sua vita è stravolta. Niente sarà più come prima. Finché è tratto tra l'altro da una premiata serie televisiva che ha vinto anche il BAFTA, appunto Edge of Darkness, e ancora Mel Gibson ci spiega qualche relazione e qualche differenza con quella serie. Nella serie televisiva originale dell'85 la figlia riappare al padre e parla con lui dopo la sua morte, ma nel film non accade e quindi la difficoltà della situazione si esprime solo attraverso i comportamenti di Craven. È stato un esercizio impegnativo interpretare quel ruolo. Lo stress e il dolore provocati dall'esperienza drammatica di perdere una figlia in quel modo lo ha sconvolto ed è probabilmente al limite di un esaurimento nervoso. Condizione che io spero di riuscire a comunicare. Craven è molto vicino al limite, ma si sforza di non far trapelare nulla perché ha un lavoro da portare a termine. La musica di John Adams, molto suggestiva, ci introduce a un altro film fra quelli in uscita in questo fine settimana. Un film italiano, un film che così merita molta attenzione, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nello scorso mese di settembre, ma poi anche a Toronto, al Sundance, passaggi un po' in molti festival e sempre con grande apprezzamento. Stiamo parlando di Io sono l'amore. Il film è diretto da Luca Guadagnino, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Luca. Buonasera. Ben trovato qui al nostro programma con il tuo film Io sono l'amore, che finalmente, dobbiamo dirlo, 6 mesi dopo essere stato visto per la prima volta a Venezia, trova la via della sala con una formula che lo porterà prima nelle città più importanti già da questo fine settimana e poi in un numero più ampio, no, di cinema. Abbiamo aperto oggi su Milano, Roma e Torino e la settimana prossima le 6 copie della prima settimana diventeranno 50. E 50 sono già un numero cospicuo, ma anche a chi a Milano, Roma e Torino, insomma, può andare a vedere questo film, ecco, il nostro consiglio: non fatevelo scappare. E sapete che siamo piuttosto parchi di complimenti qui alla Rosa Purpurea. Perché? Perché Io sono l'amore è un film

Assolutamente, congelate come la neve. Io su questo volevo farti una domanda, perché il film comincia con una straordinaria panoramica della stazione centrale in una giornata di neve, e la neve permea gran parte della prima parte del film, con un'importanza narrativa evidente anche un po', no? Il fatto che quando poi nella seconda parte le anime dei personaggi cominciano a risvegliarsi, la neve si è sciolta, no? Sembra quasi si esca da un letargo. Ora è chiaro che tu probabilmente pensavi a un inverno, ma hai avuto fortuna nel trovare quella grande nevicata o l'avete aggiunta dopo col computer? Guarda, noi abbiamo girato molta neve dal vivo finta a Milano in agosto, e poi io ho pregato che nevicasse per tutti i mesi dell'inverno successivo, e quando è successa quella stupenda nevicata del gennaio del 2009, erano 16 anni che non nevicava in questo modo, ho approfittato e sono volato a Milano, dove ho immediatamente ripreso quello che potevo quel giorno, insomma. E allora ricordiamo ancora, nelle principali città italiane questa settimana Io sono l'amore, poi 50 cinema dal prossimo weekend. Grazie davvero a Luca Guadagnino. Grazie a voi, sono felice, grazie. Dopo Luca Guadagnino, qui alla Rosa Purpura per parlare di Io sono l'amore, noi cominciamo a giocare insieme, come sempre, il nostro DVD game, tre tracce di un film misterioso che dovrete indovinare, e come sempre vi ricordo di inserire da subito il vostro indirizzo di posta privata, perché il più veloce riceverà a casa proprio il DVD di questo film. Oggi giochiamo con un super classico, ascoltiamo la prima clip. Tu ci hai aperto gli occhi, voi due siete a modo. Prego, il vaso è colmo. Ma noi vogliamo aiutarvi. Prima traccia molto breve, ma già abbastanza significativa, anche un audio che vi fa capire, insomma, che non siamo proprio in anni recentissimi. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato, più tardi un'altra possibilità. E noi andiamo avanti con i film in uscita in questo fine settimana. Chiamiamo in ballo la nostra Barbara Righini, a cui abbiamo chiesto di dare un'occhiata a questa commedia sentimentale che arriva dagli Stati Uniti con grandi potenzialità e con grandi attori. Si intitola È complicato. Ascoltiamo. Ho tante di quelle energie ultimamente. Sarà la conseguenza di tutto il sesso che faccio. Come? Insomma, ho una relazione. No. Con un uomo sposato. Non stai bene. Oh, sì, benissimo. Jane ha più di 50 anni, è single e ha tre figli grandi, liberissima quindi di fare sesso con chi vuole, non ha impegni. Peccato che fra tutti gli uomini sulla faccia della terra, Jane, dopo anni di inattività, sceglie proprio il suo ex marito, l'uomo che l'ha fatta impazzire con bugie e che è sposato con un'altra donna molto più giovane di lui. Jane, ti prego, Jake ti tradisce con lei, finisce un matrimonio di 20 anni, dopo 6 mesi lei lascia Jake e scappa con un tipo strano, ci fa un bambino, poi lascia il tipo per Jake. E non è matta? Sì. Ah, Joe, sei fortunata che Jerry sia morto. Grazie. No, insomma, non ti imbatterai mai in lui. Beh, questo è vero. In effetti la nuova compagna di Jake, l'ex marito, è un po' difficile da sopportare, e infatti l'uomo sembra aver trovato il paradiso, la pace perduta a casa della sua ex moglie. Per Jane però, nonostante il brivido della novità, la situazione non è semplice da gestire, soprattutto perché inaspettatamente un altro uomo entra a far parte della sua vita. È Adam, architetto dolce e disponibile. Volevo farti una domanda, ti prego non pensare che sia una pazza o una ficcanaso, ma tu per caso fumi l'erba? Se io, se faccio che? Insomma, tu fumi l'erba? Oh. Non faccio questa domanda da quando avevo 22 anni. No, non fumo. Ma ho fumato. Però credo di non averlo più fatto da quando sono nati i miei figli, quindi da circa 27 anni. Oddio, i nostri figli hanno la stessa età. Famosa per Tutto può succedere e L'amore non va in vacanza, Nancy Meyers torna con una nuova spassosa commedia, spalleggiata da un cast di ferro che vede Meryl Streep nel ruolo di Jane, Alec Baldwin in quello dell'ex marito e Steve Martin come nuova fiamma. Si ride di cuore, soprattutto nella prima mezz'ora del film, la confusione di Jane e il fervore da adolescente di Jake coinvolgono. Se la prima parte del film è scoppiettante, la seconda si trascina stancamente. Esplorate tutte le implicazioni collegate alla ritrovata passione, infatti il ritmo rallenta e la Meyers inciampa anche in alcuni cliché che avrebbero potuto essere evitati. Ebbene, grazie a Barbara Righini che ci ha raccontato, è complicato, insomma tutto sommato un parere positivo quello della nostra Barbara, che fra poco risentiremo, le abbiamo fatto fare gli straordinari questa settimana per raccontarci un film molto atteso, Il Profeta. Come promesso, a parlare di un altro film che arriva questa volta dalla Francia, un film che ha fatto molto parlare di sé e molto bene. È stato forse il film più amato della stagione francese, tanto che ha rappresentato la Francia alla notte degli Oscar. Stiamo parlando di Il Profeta e noi, come dicevo, abbiamo fatto raddoppiare gli sforzi alla nostra Barbara Righini, che ce lo racconta così. Hai qualcuno fuori? No, signore. Qualcuno per mandarti dei soldi? No, signore. Qui dentro conosci qualcuno per caso, amici, nemici? Nessuno, signore. Passerai la prima settimana in osservazione per vedere un po' il comportamento. Per gli acquisti e lo spaccio come fai se nessuno ti manda i soldi? Che ne so. Parabola di un uomo, un ragazzo, da debole e sbandato a criminale professionista e spietato. Quando Malik entra in carcere all'età di 19 anni è solo un giovane cresciuto fra mille difficoltà, semianalfabeta. È impaurito e presto dovrà fronteggiare le insidie che il vivere dietro le sbarre comporta, fino a quando non incontra César, un corso che dentro la prigione fa il bello e il cattivo tempo. Per Malik, César diventerà un padre padrone da rispettare, da temere ed emulare. Hanno detto che hai preso 6 anni. Hai già avuto problemi in cortile, quanto puoi reggere senza protezione? Reggerò tutto il tempo che serve. Ma che volete? Proteggerti. Tu parli arabo? Sì, sì, parlo arabo. C'è un tipo che ti ha parlato le docce ieri. Che voleva? Non lo so, voleva parlare. Perché? Non mi guardare, t'ho detto. Voglio che gli parli, che gli diventi amico, capito? Perché lo devi ammazzare. Ma ti dico una cosa, dal momento che tu adesso lo sai, se non lo ammazzi, ammazzo io te. Se al suo ingresso Malik era solo un pivello, saprà cogliere ogni occasione, sfruttare ogni opportunità e muoversi con destrezza fra le varie conoscenze per far volgere la situazione a suo favore. E quando sarà il momento di uscire di galera, avrà anche imparato a leggere e scrivere. L'hai scritto tu il tuo nome? Le lettere almeno un po' le conosci? Sai un po' anche scrivere? Sì, un po'. Fino a quando sei andato a scuola? Fino a 11 anni. Coi tuoi parli francese o arabo? Non ci sono stato con loro. Vincitore del Gran Premio al Festival di Cannes, trionfatore ai César francesi, candidato all'Oscar come miglior film straniero, Jacques Audiard evita accuratamente ogni stereotipo di genere, sta appiccicato al suo protagonista osservandolo dall'esterno, senza parteggiare per lui, mostrando la sua mutazione e la sua capacità d'adattamento, senza farne un eroe. Osservando Malik, inevitabilmente il regista svela i meccanismi interni della vita in carcere. È un film iperrealista, Il Profeta, con uno stile minimale che nulla concede al vezzo stilistico. In più, Audiard ha il merito di aver scoperto Tahar Rahim, debuttante, praticamente perfetto nel ruolo di Malik, così come lo è Niels Harestrup nel ruolo del capocorso. E allora grazie a Barbara Righini, promosso a pieni voti questo Il Profeta, una storia di una sopravvivenza che richiede una metamorfosi sostanzialmente, come spesso accade nel carcere, un luogo dal quale non si esce mai come si è entrati. E allora noi con Il Profeta abbiamo chiuso la pagina ampissima, come sempre, quella rosa purpurea sulle novità cinematografiche e giochiamo ancora insieme, la seconda traccia del DVD Game di questa settimana. Ho saputo adesso che l'hanno messa in segregazione cellulare. No! Impossibile! Dici davvero? Oh, mi dispiace per lei! Lido, era furiosa! Ma a dire il vero, trovo che lei non ne ha colpa! Hai perfettamente ragione. Voci d'antan per questo capolavoro in DVD, ricordo un'edizione straordinaria, il nostro indirizzo di posta elettronica è come sempre larosapurpurea@radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, più tardi avrete l'ultima possibilità. Oggi non abbiamo parlato di cinema in 3D, è un caso perché oggi non sono usciti film in 3D, ma le prossime settimane sono nutrite di proposte con gli occhialini. Gli occhialini che hanno fatto discutere all'inizio di questo weekend, è scoppiato un vero e proprio bubbone legato alla questione dell'uso degli occhialini in 3D. Infatti all'inizio della settimana un po' le cronache raccontavano di qualche episodio nel quale ci sono state problemi appunto agli occhi, soprattutto a qualche bambino dopo la visione visione di film in 3D, e il Ministero della Salute soprattutto ha preso una decisione, ha dato un'indicazione: no agli occhiali 3D al cinema per i bambini al di sotto dei 6 anni di età, uso limitato anche per gli adulti e scelta dei modelli usa e getta per evitare la trasmissione di infezioni batteriche e virali. Questo è quel che è venuto fuori dalla circolare occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici del Ministero della Salute. Ora, chiaramente si è scatenato un putiferio attorno a questa, che è più che una decisione, è un'indicazione. Un'indicazione che nasce da una serie di esposti del Codacons, Unione di Consumatori. Noi abbiamo chiesto al presidente del Codacons, Carlo Rienzi, quali sono le motivazioni che hanno spinto il Codacons a occuparsi di questa questione. Beh, nasce da decine di segnalazioni che lamentavano disagi, malessere, lacrimazioni, addirittura svenimenti, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo cominciato a sentire i medici e cominciato a chiedere all'autorità che ci facesse capire che diavolo stava succedendo. Il Consiglio Superiore di Sanità, su nostra richiesta, ha emesso un parere che è stato ricevuto dal Ministero della Salute. Per la verità è un parere un po' alla Ponzio Pilato, evidentemente la potenza delle lobby che sono dietro questo grosso business che è il cinema in 3D ha anche avuto il suo ruolo, perché che cosa dice il Consiglio Superiore e il Ministero? Dice: ma sì, non ci sono prove che facciano proprio male, cioè inverte quello che è il principio di precauzione che vige nel nostro ordinamento per il Trattato di Roma, cioè mentre non si potrebbe immettere in commercio uno strumento nuovo, in questo caso questo tipo di occhialino, se non c'è la prova della innocuità assoluta. Quindi bisogna provare l'innocuità, perché non si può far sì che il cittadino, il consumatore faccia da cavia, cioè vediamo come va, poi decidiamo. Ecco, invece il Ministero inverte e dice: non ci sono prove che faccia male, ma non è quello il problema. Devono esserci prove che è sicuramente innocuo. E fin qui il parere del Codacons, insomma, diciamo, dell'accusa fra virgolette, che ha poi scatenato appunto la circolare del Ministero. Ma adesso noi andiamo a sentire l'altra parte, la parte di chi tutte le mattine, anzi tutte le sere, alza la sala cinesca di un cinema e propone uno spettacolo cinematografico. Siamo in collegamento con Paolo Protti, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, che saluto. Ciao Paolo. Buonasera a voi. Allora, hai sentito, le accuse di Rienzi sono precise: scarsa igiene, e vengono segnalati episodi, insomma, di cinema un po' superficiali nel lavaggio, diciamo così, nella disinfestazione di questi occhialini, e poi insomma nessuna certezza nell'interpretazione di questo regolamento. Addirittura il Codacons vede il regolamento, che voi ritenete molto severo, lo vede poco severo, e questa è una delle classiche situazioni all'italiana nelle quali non si capisce dove stia la verità. Qual è la posizione degli esercenti? Allora, la prima cosa certa, scientificamente dimostrata, ed è all'interno della circolare del parere del Consiglio Superiore della Sanità, è che gli occhiali 3D non provocano danni. Secondo, questo non è certificato soltanto da questo parere, noi abbiamo consultato primari medici italiani e americani, l'Università di San Francisco, l'Università della Sapienza di Roma, il primario di un pronto soccorso oculistico. Tutti hanno dato la risposta che non esiste al mondo e in Italia un caso accertato di conseguenze derivante dall'uso di occhiali o della visione del film. E questi sono dati certi, inoppugnabili. Esistono, è vero, casi di mal di testa, sono soprattutto pochi, intanto smentiamo, si smentisce il fatto numerico, sono pochissimi casi. È vero che sono concentrati sui bambini al di sotto dei 10 anni, questa è una testimonianza non mia ma proprio dei pronti soccorsi oculistici, e sono motivati al 99% dal fatto che questi bambini hanno dei difetti di vista di cui non erano a conoscenza, erano latenti, si entra nella terminologia tecnica, sono correzioni della vista refrattiva che devono avere. Quindi la responsabilità non era dell'occhiale, non era del film, era di questa correzione di cui i bambini hanno bisogno, quindi i genitori sono consigliati a una visita oculistica per fare questa correzione. Ecco Paolo, però c'è chi dice che a volte, è capitato anche a me personalmente di vedere nei cinema, che non sempre sembra ci sia il tempo tra uno spettacolo e l'altro di dare la necessaria appunto sterilizzazione e disinfestazione a questi occhialetti, soprattutto a quelli che si usano più volte. È così? Cioè, tu hai avuto evidenze di questo tipo? Molto abbiamo una dotazione doppia, cioè se una sala, per fare dei numeri, è di 300 posti, abbiamo 600 occhiali, perché quindi il gruppo di 300 entra e quando esce gli si dà, gli altri 300 sono pruditi, nel frattempo comincia il ciclo di lavoro per disinfettarli e riconsegnarli puliti. Questo procedimento deve essere assolutamente garantito, come è giusto, deve essere fatto con prodotti idonei, come questo è giusto, lo diciamo da tempo, lo facciamo da tempo. Nel momento in cui viene consegnato un prodotto che è stato disinfettato, il nostro spettatore, perché è spettatore nostro, a cui ci teniamo moltissimo, deve essere assolutamente tranquillo su questo. E su questo noi siamo disponibili a controlli, non c'è nessun problema. Chi sbaglia paga, ma la procedura è assolutamente corretta. Grazie a Paolo Protti, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, e a risentirci qui alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. E allora, questa è la querelle legata all'uso degli occhialini in 3D. Comunque i film in 3D continuano tranquillamente ad uscire nelle sale italiane e non c'è al momento alcun tipo di, ovviamente, né di divieto e né di altra così circolare, se non quella di cui abbiamo cercato di parlare ospitando le due parti in causa. Allora, parliamo di Star Wars, non perché stia uscendo nelle sale italiane Star Wars, ma perché sta arrivando uno spettacolo davvero imperdibile. Si intitola Star Wars in Concert e, come avete capito, è un grande concerto per orchestra sinfonica, pensate, un'orchestra di 86 elementi che dal vivo suona le grandi musiche di John Williams composte per i vari capitoli della saga di Star Wars, i sei capitoli della saga di Star Wars. È la prima volta che questo spettacolo arriva in Italia, ha avuto un successo planetario, tre concerti a Milano tra il 26 e il 27 marzo al Forum di Assago, in due giorni appunto tre spettacoli e un narratore d'eccellenza, Anthony Daniels, niente meno che l'attore che non abbiamo mai visto in faccia durante Star Wars, perché era interprete del robot C-3PO, che in Italia era D-3PO perché c'erano delle variazioni sui nomi, lo ricordate anche con Darth Vader o Darth Fenner, e questa era un po' un'italianizzazione dei nomi dei personaggi di Star Wars. E allora Anthony Daniels sarà lì sul palco a fare da cucitore, da narratore fra i vari momenti musicali, con grandi immagini del film ovviamente su uno schermo gigantesco alle spalle dell'orchestra. Uno spettacolo da non perdere, quindi noi abbiamo chiesto proprio ad Anthony Daniels, che abbiamo raggiunto a Londra, di raccontarci qual è il senso di questo spettacolo e quello del suo ruolo. Sentiamo. Star Wars in Concert is a combination of two things. Star Wars in Concert è una combinazione di due cose. Una storia amatissima dal pubblico perché la saga del ragazzo Anakin Skywalker, che crescendo diventa Darth Vader e che alla fine viene sconfitto dal suo stesso figlio Luke, è conosciuta da molti anni in tutto il mondo. E poi c'è la musica, che in questo caso è scritta da John Williams. Moltissime persone conoscono quell'aria famosissima. E in più l'orchestrazione è molto ricca e classica. E tutto ciò rende Star Wars in Concert un concerto spettacolare, arricchito da immagini e spezzoni dei sei film proiettati su mega schermi LCD ad alta risoluzione. Tutto questo è accompagnato dal suono dell'Orchestra Filarmonica Reale di Londra, composta da 86 musicisti diretti dal maestro Dirk Brossi. Il direttore è stato in tour con me in America e ora è con enorme gioia che portiamo insieme questo straordinario evento in Europa. Oltre all'orchestra e ai mega schermi, abbiamo anche dei favolosi effetti luci e laser. E poi, il momento clou dello spettacolo, sono proprio io. Entro in scena vestendo i miei panni e non quelli del robot dorato di Star Wars. Sul palco comincio a citare molte battute delle varie storie, alternate ad altri momenti dei film sugli schermi e a brani musicali straordinari. E devo dire che il pubblico dimostra un grande affetto nei confronti della saga. Lo ha fatto in America e lo sta facendo anche in Europa. E devo dire che per godersi il concerto di Star Wars non è necessario conoscere la storia, perché la raccontiamo in maniera così semplice ed elegante che alla fine dello spettacolo ci si ritrova a conoscenza di tutto ciò che serviva. Chi sono i personaggi, da Darth Vader a Yoda, l'intera sequenza degli eventi, insomma, tutto ciò che occorre per poter parlare di Star Wars durante un cocktail senza averlo mai visto. Inoltre, è uno show perfetto per le famiglie. Chi è un grande fan della saga e vuole venire al concerto vestendo il costume del suo personaggio preferito, lo incoraggiamo a farlo. Infine, chi ama anche solo la musica suonata da un'orchestra inglese meravigliosa, resterà assolutamente estasiato dal suono di questi strumenti. then you will absolutely be thrilled by this great sound that comes from the stage. E la rush finale della nostra trasmissione, come sempre, dedicato al cinema da vedere in casa, e cominciamo con la televisione, con i consigli rigorosamente in chiaro della redazione di Film TV. Siamo in collegamento con Sara Sagrati per il consiglio di questo fine settimana. Ciao Sara. Buonasera Franco, bentrovati a tutti con la segnalazione di Film TV. Questa settimana parliamo del film di Paul Haggis Nella Valle di Hela, che andrà in onda mercoledì 24 in prima serata su Rai 3 alle 21.10 in prima visione TV. Il film è fondamentalmente la tragedia dell'Iraq vista dall'America. Un padre, un ex marine soldato tutto d'un pezzo, viene avvisato che il figlio, che era a distanza in Iraq, tornato in America per una licenza, è scomparso, nessuno sa dove è finito. Lui decide quindi di andarlo a cercare e scopre un mondo che non conosceva, a cui non era abituato, come se la sua tragedia personale fosse il simbolo di una tragedia di un intero paese in guerra, anche se la guerra è lontana. Il film fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2007 e ebbe una reazione assolutamente paradossale, in quanto grandissimi applausi da una parte e fortissimi fischi agguerriti dall'altra. In realtà il film ha una sceneggiatura talmente leccata e perfetta, Paul Haggis, infatti il regista, è un grandissimo sceneggiatore di Hollywood e anche della TV, da risultare manieristico, un po' didascalico. Sicuramente però riesce a risollevarsi sia per l'importanza comunque di una storia come questa, ma anche per la grandissima interpretazione di Charlize Theron e soprattutto di un Tommy Lee Jones intenso come non mai, con occhi tristi ma ancora passionali, che fa di tutto per capire dove siamo finiti. Sicuramente Nella Valle di Hela è un film comunque importante da vedere e stranamente ricevette molto meno successo sia di premi che anche di pubblico che il sopravvalutato film Crash, di cui sempre Paul Haggis era sceneggiatore e regista, che vinse addirittura l'Oscar come miglior film. Con questo è tutto, buona visione e alla prossima settimana. Grazie Sara Sagrati, ricordiamo ancora l'appuntamento Nella Valle di Hela di Paul Haggis, tra l'altro in prima serata mercoledì 24 marzo alle 21.10 su Rai 3. Si apre la terza finestra sulla DVD Game di questa settimana, ascoltiamo l'ultima clip. La sua vergogna è vergogna anche per noi. Già, è vero! Oh, proprio così! Sì, ma francamente non mangerei alla stessa balla di fieno con lui. Io nemmeno. Nemmeno io, cara. Oh, no, davvero. Direi ben di no. Hai ragione, cara. Eccolo che viene. E se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere il DVD di questo film. Noi facciamo un salto indietro, come sempre, di una settimana e andiamo a risentire una delle tracce del film che ho trovato piuttosto difficile a posteriori, che abbiamo fatto ascoltare 7 giorni fa. È quasi certo che il decesso è stato causato dalla ferita da proiettile alla testa e non dalle percosse ricevute. Ok, che altro? Con le due amiche aveva fatto il giro di 4 bar, quelli che possono averle viste li stiamo interrogando. Un'altra cosa, nello zainetto trovato nell'auto c'erano dei dépliants e una lista di alberghi di Las Vegas. Non mi pare granché. Non pensavamo, come dicevo, di avere proposto un film così difficile, invece hanno indovinato in pochi, ma ci sono due ascoltatrici che sono riuscite a indovinare. Si trattava di Mystic River, straordinario capolavoro di Clint Eastwood. Roberta Marangon, se no sembra che siamo alle scuole elementari di Jesolo, provincia di Venezia, e Carmen Esposito di Atripalda, provincia di Avellino, riceveranno il Blu-ray di Mystic River, del quale parliamo con il nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il Blu-ray di Warner Home Video ha una qualità nel complesso molto elevata, c'è un minimo risalto in eccesso per i contorni degli elementi in primo piano nei momenti elevato contrasto. Segnalo che l'audio in italiano è praticamente lo stesso del DVD, un Dolby Digital multicanale, e direi che l'unico ascolto senza perdite di dinamica è veramente l'inglese DTS ad alta risoluzione. Anche per gli extra sono gli stessi della versione DVD, c'è un interessante commento al film degli attori Tim Robbins e Kevin Bacon, due speciali ufficiali sul film e varie interviste, tra cui una molto interessante al regista. E allora, questo era Mystic River. Noi andiamo avanti con le novità in videoteca di questo fine settimana, cominciando con un film che ebbe un grosso successo di critica quando uscì alla fine degli anni 90. Si intitolava Elizabeth, interpretato da una grande Kate Blanchett. Sentiamo. Più ti guardo e più vedo che non hai niente del re. Somiglia a quella sgualdrina, a tua madre. Mio padre non ha mai fatto niente di più giusto che farle tagliare la testa. Vostra maestà dimentica che era anche mio padre. Perché non vuoi confessare i tuoi crimini contro di me? Perché vostra maestà non ne ho commesso neanche uno. Tu sai parlare con una tale sincerità. Vedo che sei ancora un'attrice consumata. In Inghilterra, a metà del Cinquecento, la nazione soffre per problemi finanziari e religiosi. La cattolica regina Maria I, sentendosi prossima alla fine, intensifica la lotta al protestantesimo. Anche la principessa Elizabeth, sorella minore e legittima erede al trono, è perseguitata perché è considerata poco ortodossa. Il tentativo di condannarla a morte per tradimento fallisce e alla fine Elizabeth diventa regina, trovandosi ben presto ad affrontare numerosi nemici dentro e fuori corte. Dramma storico intenso realizzato dal regista pakistano Shekhar Kapoor, forte di un impianto narrativo che non disdegna elementi grafici di notevole impatto. Da Universal arriva il Blu-ray, eccellente qualità video, tra le varie tracce audio un'ottima DTS in italiano, ovviamente a superare tutte come al solito, anche in questo caso l'inglese ad alta risoluzione. Tra gli extra segnalo il commento del regista e un documentario sulla realizzazione di 30 minuti. Ricordo che in contemporanea con l'uscita di Elizabeth, Universal ha rilasciato sempre su Blu-ray anche il seguito Elizabeth The Golden Age. E noi andiamo all'ultima proposta di questo fine settimana, un film che fa della animazione grafica, diciamo così, un notevole punto di forza. Si intitola semplicemente Piovono polpette. La macchina usa un principio di mutazione idrogenetica. Le molecole d'acqua vengono bombardate con radiazioni di microonde che mutano la loro composizione genetica in qualunque cibo desideri. Tipo la pizza? Sì. Pure di patate? Sì. Pasta? Sì, anche quello è cibo. Bistecca? Sì. Mele? Salsa di mele? Sì. Club sandwich? Sono certo di aver detto tutto il cibo. All'itbola? Ok, pensa a quello che chiedi e se si mangia allora si può fare. Una bufala? Una bufala è sempre cibo. Ma fa anche la gelatina? Clint Lockwood è noto nella città dove vive per essere un inventore di macchine inutili senza senso, ma lo scienziato ha deciso di mettere insieme un'invenzione che renda felici le persone. L'ultima idea strampalata, come abbiamo sentito, è legata a un macchinario per trasformare l'acqua in cibo. Una volta attivato, il sistema schizza letteralmente tra le nuvole cariche d'acqua, producendo una quantità incredibile di cibo, sino a veri e propri tornado di spaghetti e polpette. Con l'aiuto di una giornalista che si occupa delle previsioni del tempo, lo scienziato cercherà di fermare questo meccanismo. Divertente commedia in computer grafica che senza retorica pone l'accento sui rischi prodotti dalla sovralimentazione, ma abbraccia anche temi più universali come il rapporto padre-figlio. Da Sony Pictures Home Entertainment arriva il DVD di eccellente qualità, ci sono tanti extra, è presente naturalmente anche il Blu-ray, in questo caso da preferirsi, soprattutto perché è disponibile addirittura per l'italiano una traccia ad alta risoluzione, tantissimi appunto come dicevo gli extra, tra cui commento al film, vari approfondimenti sulla lavorazione. Nel caso del Blu-ray c'è una divertente modalità di visione del film, cosiddetta sparacibo, dove è possibile scagliare virtualmente sullo schermo ogni sorta di cibarie. Grazie Claudio Poffi per averci raccontato le uscite in DVD di questo fine settimana, appuntamento fra 7 giorni. A presto, un saluto. E come sempre con Claudio Poffi si chiude anche la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15 qui su Radio 24. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.